Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Siamo pronti per una puntata di Cuore Denari e siamo pronti per dare il bentornata a Debra. Eccomi qua, finalmente, a volte ritornano e non è una minaccia. Allora, subito i temi che affronteremo nella puntata di oggi. Nella prima parte della trasmissione parliamo di allergie, la primavera è nell'aria, ma anche parleremo di inquinamento, della serie arrivano le rondini ma le polveri sottili restano e tra l'altro si alleano con gli allergeni, creando un mix particolarmente irritante, con il risultato che molti di noi si confrontano con occhi secchi, rossi, irritati, raffreddori frequenti e prolungati nel tempo, tosse, mancanza di fiato, respiro sibilante. Mi fermo qua. Vi siete riconosciuti? Allora restate, ascoltate e chiamate il nostro numero verde 800 24 0024 per i vostri interventi. Il mio rientro invece coincide con un giorno che i nostri ascoltatori ormai hanno imparato a conoscere bene, il giovedì, il giorno di Investire Informati, la nostra rubrica dedicata ai piccoli risparmiatori che riparte dopo la pausa della settimana di Pasqua. Allora, intanto per i denari vi anticipo che stiamo entrando in un periodo molto intenso per questi temi e per la nostra trasmissione. Si avvicina il Salone del Risparmio che animerà Milano la prossima settimana, il 6, il 7 e l'8 aprile, e ci vedrà in diretta con tre puntate speciali di Cuore e Denari, proprio naturalmente dagli spazi del salone. Noi ci saremo anche con una conferenza organizzata per l'8 aprile su tutto il percorso fatto con Investire Informati, per cui se volete saperne qualcosa di più andate sul sito e se volete iscrivetevi anche e partecipate. Per quello che riguarda la puntata di oggi, come sempre commenteremo le principali notizie economico-finanziarie, faremo un po' il punto della situazione di questi primi tre mesi dell'anno che hanno visto molte scosse intense sui mercati azionari in particolar modo, e quindi faremo un punto sull'andamento delle borse, rispondendo come sempre a tutte le vostre domande e curiosità all'800 24 0024. Eh sì, la primavera è nell'aria, a voi che effetto fa? Vi sentite più attivi? Vi state risvegliando? Bene, secondo uno studio effettuato dall'Università Americana di Georgetown, con il cambio di stagione la retina reagisce alle variazioni di luce stimolando dei cambiamenti ormonali, e secondo i ricercatori questa sarebbe la prova provata che i nostri organismi sono proprio programmati per essere più attivi quando il livello di ormoni cambia con l'aumentare della luce. Ma non per tutti. Tutti è così. A questo proposito su Twitter abbiamo lanciato un sondaggio ad hoc, la domanda è semplice: per voi la primavera è opzione numero 1 stanchezza, opzione numero 2 risveglio, oppure opzione numero 3 malessere? Chiamateci anche al nostro numero verde per raccontare quanto, come, dove il cambio di stagione impatta sul vostro benessere generale. Intanto saluto il nostro ospite di oggi che ci fa il piacere di venire qua in studio a trovarci, Debora. Abbiamo in studio il professor Sergio Rari, che è direttore dell'unità operativa di pneumologia all'ospedale San Giuseppe Multimedica di Milano. Buongiorno. Buongiorno. Benvenuto. Grazie. Professore, la primavera è una stagione difficile, soprattutto per chi vive in città e soffre di allergie. Numerosi studi, infatti, hanno provato che l'inquinamento ha un ruolo determinante nell'aumento delle allergie che si registra proprio in questi ultimi anni nei paesi occidentali. Tra polveri sottili e allergeni si instaura una relazione pericolosa che sembra alimentarsi reciprocamente. Ci spiega, professore? Le polveri sottili e in particolar modo il particolato hanno varie azioni. Una azione è quella irritante direttamente sui bronchi, ma hanno anche delle azioni indirette, meno conosciute. Una di queste è quella di portare in giro, come dei vettori, altre sostanze, in particolare, riferendoci alle allergie, gli allergeni. Quindi in questi giorni in cui abbiamo le fioriture e in cui tutta una serie di allergeni sono particolarmente presenti, come le graminacee e così via, questi possono essere portati molto più lontano e l'azione può essere potenziata grazie appunto ai particolati. Abbiamo poi un'altra azione dello smog, che è quella di aumentare le immunoglobuline E. Le immunoglobuline E sono le immunoglobuline che entrano nel meccanismo delle reazioni allergiche, e quindi anche questo gioca nell'implementare ulteriormente le allergie. Infine, d'estate in Italia abbiamo delle concentrazioni estremamente elevate, il paese europeo con le concentrazioni più alte, di un inquinante che è l'ozono, quello del buco dell'ozono, tanto per intendersi. Quello del famoso buco, insomma. Esattamente, che ha un'azione molto particolare di tipo irritativo sulle mucose, quindi anche sulle mucose respiratorie, e che può danneggiare con varie modalità che adesso sarebbe lungo elencare, ma che può favorire polmoniti e anche altri meccanismi di tipo infettivo, ma può creare un'azione favorente poi a meccanismi ancora una volta di tipo asmatico. Quindi tutto questo vuol dire che l'inquinamento, con più meccanismi, più azioni a seconda anche degli attori in gioco, può svolgere un'azione favorente allergie e asma. Professor Arari, facciamo un identikit del dannato di primavera? Ma dunque, allergico, metropolitano? Allergico, metropolitano, stressato, tanto lo stress va bene ovunque, va bene quando te stagioni, peggiora anche le allergie. Ma allora, per buttarla un po' così su cose meno note, una cosa molto interessante che è stata ormai pubblicata da qualche anno fa, ma è stata poi riportata in più studi, è che vivere e avere una situazione di tipo particolarmente protetto, come si ha negli paesi occidentali come il nostro, in cui ormai i bambini crescono molto difesi, con un'alimentazione particolare, un po' sotto la campana di vetro, esatto, no? In realtà ha un effetto negativo, perché c'è un'immunizzazione che avviene nei primi mesi della vita minore, e questo gioca quindi su un maggior sviluppo di allergie. Questo è stato visto per esempio nei cambiamenti per ciò che riguarda le patologie allergiche che si sono sviluppati dopo la caduta del muro di Berlino, fra Berlino Est e Berlino Ovest. Ah dai. Sì. Quindi è la teoria dell'eccessiva igiene che ritorna, sì, questa, sì, no? ad essere uno dei tanti fattori che può spiegare l'aumento delle allergie. Della serie a quello che non strozza ingrassa, professor Arari, così dicevano le nostre nonne, no? Intanto voi non dimenticate di rispondere al nostro sondaggione su Twitter. La primavera per voi è malessere, risveglio, stanchezza. Secondo voi assomigliate al dannato di primavera, quindi siete metropolitani, magari siete allergici? Professor Arari, tra l'altro, l'allergia può anche spuntare all'improvviso, nel senso, possiamo diventare allergici nel corso della vita e quindi magari confondere, non essere in grado subito di riconoscere che quel raffreddore che ci tormenta, quella tosse, quel sibilino che avvertiamo, potrebbero essere non segnali di una raffreddatura, ma segnali di un'allergia che ha deciso di venirci a trovare. Professore, l'inquinamento è una minaccia per la nostra salute? L'ultimo rapporto dell'OMS su ambiente e malattie parla chiaro e fotografa una situazione da maglia nera, e secondo questo rapporto l'inquinamento ambientale contribuirebbe all'insorgenza di più di 100 malattie, ma sicuramente è l'apparato respiratorio il primo a farne le spese, tanto che negli ultimi anni si assiste ad una crescita progressiva delle malattie respiratorie. Ci aiuta un po' a fare il punto della situazione? Chi sale, chi scende, chi rimane fermo sulla sua posizione? Allora, prima di tutto credo che sia importante, anche per chi ci ascolta, chiarire due cose che sono frequentemente ragione di domande. Si può diventare, come diceva lei Nicoletta, allergici a 50 anni, 70 anni o asmatici? Assolutamente sì. Quindi l'età non è un fattore limitante. Chiaramente è più facile registrare casi in età pediatrica o in adolescenza, ma si può vedere dei pazienti che diventano asmatici anche in età molto più significative. La seconda cosa è la tosse. La tosse è il primo sintomo dell'asma, è un sintomo estremamente frequente in medicina, chi di noi non ha mai avuto la tosse, ma bisogna pensare che può essere la spia di una forma asmatica, ed è molto frequente il fatto che i pazienti vengano alla nostra osservazione dicendo: sono due anni che ho la tosse e poi faccio bronchiti recidivanti, perché? Perché probabilmente c'è un asma non riconosciuto. Sicuramente mi viene subito da tossire, ti viene non la spina, so perché un po'. L'altro aspetto è che appunto l'OMS ha recentemente segnalato come l'inquinamento giochi un ruolo molto negativo anche nei paesi europei, per non parlare di quello che fa in altre aree del mondo, e l'Italia è sicuramente uno di quelli più colpiti. Dei miglioramenti per alcuni inquinanti, devo dire, negli ultimi anni sono stati fatti rispetto all'inquinamento che si aveva 20 anni fa, in particolare per i particolati, dove il cambiamento delle modalità del traffico, dei veicoli, eccetera, eccetera, ha sicuramente contribuito ai riscaldamenti, a un miglioramento delle concentrazioni. Le concentrazioni di ozono invece rimangono molto alte, sono un problema maggiore per l'Italia. Complessivamente il problema è che però abbiamo anche un aumento della popolazione suscettibile. Cosa vuol dire suscettibile? Vuol dire che, lo sappiamo tutti, invecchiamo di più e abbiamo più malattie che non sono più per fortuna mortali, ma con le quali conviviamo. Questa suscettibilità generale della popolazione, con il fatto che persistono comunque dei dati di inquinamento importanti, gioca nel quello che si traduce nei dati che troviamo nei rapporti, come quello dell'OMS, sui dati di mortalità, di morbilità, di diffusione delle malattie. Le malattie respiratorie sono in crescita, l'OMS dice che sono passate da quarta causa di morte in tutto il mondo, dopo il cardiovascolare, tumore, a terza causa di morte. In più ci sono anche i tumori del polmone, in cui noi sappiamo oggi esserci un ruolo dell'inquinamento, quindi insomma la situazione è questa. Allora, 800 24 00 24, se volete intervenire per parlare di inquinamento, per parlare delle allergie, per parlare della salute del vostro apparato respiratorio, in modo particolare della tosse. E quindi andiamo a sentire subito Ignazio, che ci chiama dalla provincia di Ravenna, prima di sentire le informazioni sul traffico. Ignazio, buongiorno, benvenuto. Pronto, buongiorno. Buongiorno a lei. Intanto grazie per avermi chiamato. E allora, io ho fatto diverse visite da diversi pneumologi e diciamo quello che mi hanno trovato è stato un asma intrinseco. Questo è quello che mi è stato detto, insomma. Comunque, io continuo ad avere appunto tosse, allergie varie. Per farmi capire meglio, un po' prendo in esempio la discoteca, dove ci sono quelle polveri che vediamo quando i faretti sono puntati verso il basso, eccetera. In quelle situazioni lì avverto appunto il disturbo, cioè quindi perché la Ignazio balla Ignazio anche. Va, ecco. Sì, balla. Bravo, bravo, non ci sono controindicazioni, è vero, professor Arari? Allora, Ignazio ci dà lo spunto per parlare di asma. A volte c'è la tosse asmatica, non viene subito riconosciuta dal paziente. Naturalmente non dobbiamo essere noi a fare autodiagnosi, ma è importante che sappiamo dare un po' alcune caratteristiche della tosse, e di questo faremo nel corso della trasmissione. Ci aiuterà naturalmente il professor Arari, che dopo le informazioni sul traffico darà delle indicazioni ad Ignazio. Grazie Ignazio, resti con noi. Strada e torniamo insieme. Pantera millesimato, l'IRP di Infracomitalia per le aziende vitivinicole, sempre col TH. Vi presenta Cuore e denari. Un fulmine a ciel sereno. Siete malata? Lo sono stata, ma ora non più. Tossisco solo perché ho un po' di paura. Non è perché... Riditelo. Tossisco quando ho paura. Per noi è diventata la tosse di Anastasia, no? È vero. Per Ippocrate la tosse era la voce del polmone, per tutti noi comunque un disturbo fastidioso e talvolta preoccupante, per il medico invece un sintomo da indagare, spia anche di numerose diverse malattie, anche veicolo di infezioni. Ne parliamo oggi nel corso della puntata, anche perché la tosse è una delle prime cause che ci spingono a rivolgerci al nostro medico curante. Ma non solo, parliamo di tosse perché, come il nostro esperto che è qui oggi in studio con me, il professor Sergio Arari, ci raccontava, le malattie dell'apparato respiratorio sono in continua crescita, e la ragione ce l'ha spiegata: da un lato la vita media si è allungata, dall'altro anche pesano le condizioni ambientali in cui viviamo, che purtroppo, secondo l'ultimo rapporto dell'OMS, non sono certo delle migliori. Allora, professor Arari, Ignazio e la sua asma, è andato a farsi visitare da numerosi medici. La buona notizia è che tutti hanno fatto la stessa diagnosi, che non è una cosa scontata, no? Perché più medici vedi e più rischi due e medici, più ti confondi. Tre pareri. Ecco. Quindi diciamo che almeno in questo Ignazio è stato fortunato. Prima di tutto il signor Ignazio ha detto che ha un asma intrinseco. L'asma intrinseco vuol dire che non è un asma allergico. Questo è un altro dei luoghi comuni che va sfatato. L'asma, in una grande percentuale dei casi, non è legato alle allergie, è indipendente. Poi esiste anche l'asma allergico, ma esiste una quota importante di pazienti come Ignazio che ha un asma che non ha una natura allergica. Sull'esposizione al pulviscolo durante le discoteche, come l'ha chiamato lui, ci sono due fattori. Uno la polvere, l'altro fattore che è l'attività fisica. L'iperventilazione che si ha durante l'attività fisica, in questo caso ballando, è uno stimolo irritativo. Tanto è vero che nei ragazzini, per esempio, c'è l'asma da sforzo, che è tipicamente quello che si manifesta, ad esempio, quando i ragazzini vanno a correre, proprio come risposta all'iperventilazione. Per questo di solito quello che basta fare è un adeguamento della terapia broncodilatatrice che Ignazio fa, oppure semplicemente due spruzzi di broncodilatatore a breve durata d'azione come il salbutamolo prima di andare in discoteca 10 minuti prima quando si entra. E così scende in pista. Anche esatto. Ignazio l'abbiamo sistemato. Allora, invece lei deve darci una mano a capire qualcosa di più della nostra tosse. Iniziamo a dire che è fastidiosa, però è utile perché è un meccanismo di difesa. Guai se non ci fosse la tosse, è un po' come lo stress. C'è uno stress buono e ci aiuta, e la tosse la sua funzione ce l'ha ed è una funzione importante, professor Arari. Assolutamente sì, la tosse ha un meccanismo di difesa molto importante, quindi bisogna stare attenti a inibirla. Tuttavia è evidente che quando la tosse diventa invadente oppure diventa addirittura così stizzosa da determinare, come può avvenire, delle infrazioni costali, cioè delle microfratture delle coste, va in qualche modo gestita. La tosse è, come dicevo prima, il sintomo che più frequentemente conduce i pazienti dal medico di medicina generale, quindi il sintomo più frequente che noi abbiamo, ed è un sintomo che ha tantissime cause che vanno dalle bronchiti, l'asma, la polmonite, lo scompenso cardiaco, purtroppo anche patologie più serie come il tumore polmonare. Il reflusso. Il famosissimo reflusso. Sì, adesso c'è questa grande moda del reflusso come causa di tosse, sì. Però bisogna fare una tara. Anche su Giacomo cosa. Poretti, mi ricordo che in un'occasione, il bello del trio, come lo chiamo io, ci diceva, era intervenuto dicendo un po', no, la malattia del momento, il reflusso. Sì, c'è questa grande così. Bisogna però dire che da una parte l'asma e dall'altra parte il reflusso sono due malattie molto frequenti. Certo. La coesistenza nella popolazione generale non vuol dire necessariamente che una causi l'altra o sia legata all'altra. Quindi comunque sono moltissime le cause di tosse, nella stragrande maggioranza dei casi sono abbastanza di facile identificazione con una semplice visita, al limite con pochi esami, con una radiografia del torace. La spirometria è sempre fondamentale, che è un esame molto semplice, che misura funzione respiratoria, può essere fatta in qualsiasi ambulatorio. Ci sono invece dei casi che sono però una percentuale molto limitata, in cui risalire alla causa della tosse può essere più difficile. E poi non dimentichiamo che ci sono anche le tossi di natura psicosomatica, nervosa. Infatti la famosa anastasia. La famosa anastasia. Ecco, allora 800 24 00 24, diamo alcune indicazioni al professor Arari. Non, naturalmente non potrà fare diagnosi al telefonica, ma ci potrà dare delle indicazioni. Ad esempio, professore, partiamo dal come, perché la tosse non è uguale per tutti, secca, stizzosa, grassa, per cui questa potrebbe essere un'indicazione. Poi potrebbe essere utile sapere se si scatena magari in ambienti chiusi o all'aperto, o quando facciamo uno sforzo o in alcuni periodi dell'anno. È molto importante che il soggetto che ha la tosse registri mentalmente quando si manifesta, che variazioni ha, se gli viene, come dicevi, quando passa dall'aperto al chiuso, dai cambi di temperatura, con l'umido piuttosto che con la nebbia, piuttosto che quando fa attività fisica, piuttosto che dopo mangiato, prima di mangiato. E quando il medico lo interroga durante l'anamnesi, queste sono informazioni utilissime per inquadrare il sintomo e andare in una direzione rispetto ad un'altra, perché ovviamente Una cosa è se la tosse ti viene in corrispondenza dei pasti, che evoca effettivamente un reflusso. Un'altra cosa è se la tosse invece ti viene quando fai l'attività fisica, oppure quando hai degli episodi di mancanza di fiato mentre stai facendo le scale. Sono tutte delle situazioni diverse che portano poi il medico a degli accertamenti, delle valutazioni in una direzione piuttosto che un'altra, dato che appunto le cause di tosse sono diverse, potrebbe essere per anche il cuore. Orientarti, l'anamnesi è molto importante. Allora, vi siete orientati? 800 24 00 24. Aggiungiamo un dettaglio: parleremo anche della tosse dei vostri bambini. I genitori si allarmano, ma noi abbiamo il professor Arari, quindi siamo in una botte di ferro. Intanto andiamo da Giovanni da Roma. Buongiorno. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Giovanni, lei va a ballare? Dunque, la mia situazione è molto semplice. Sono allergico accertato alla parietaria, olivo, gatti e cipressi. Uso il CPAP la notte perché vado in apnea. E mi è stato consigliato di utilizzare i famosi puff di cui parlava il dottore prima, al mattino e alla sera, più un antistaminico, sempre, cioè tutto l'anno. La mia domanda è questa: io non soffro di, non ho tosse, a parte un po' di affanno quando cammino un po' più veloce, eccetera eccetera, quindi diciamo che sintomatologicamente mi sembra di star bene. È necessario tutta questa cura di puff più antistaminico per tutta la vita? Giovanni vuole alleggerirsi un po', professor Arari. L'asma è una malattia per definizione cronica, quindi dura per tutta la vita quando ti è stata posta la diagnosi. Nella larghissima maggioranza dei casi l'asma necessita di un trattamento che è cronico. Ci sono dei pochi casi in cui si può trattare il paziente solamente sull'emergenza del sintomo. Nella stragrande maggioranza dei casi il trattamento è cronico. Bisogna fare lo stesso confronto che si ha quando uno ha la pressione alta. Se tu prendi il farmaco la pressione si abbassa, se tu quel giorno lì ti dimentichi la pressione ritorna come prima. Anche qui non esiste un accumulo, non esiste un effetto a lunga durata, per cui è inutile dire ma io lo facevo fino a 3 mesi fa, perché il giorno dopo che tu hai smesso il farmaco l'effetto è finito. Allora, noi diamo la linea al nostro GR, torniamo subito dopo per parlare di tosse, asma, allergia e qualità dell'aria. State ascoltando un programma offerto da Scegli Anima, miglior gestore fondi italiani Big al premio Alto Rendimento 2015 del Sole 24 Ore. Cuore e denari. Tosse non ce n'è solo una, ne abbiamo appena sentito una dimostrazione, ce ne sono vari tipi: stizzosa, secca, grassa, abbaiante, sibilante, roca, diurna, notturna, nervosa. Aggiungete anche la vostra all'800 24 00 24. Ce n'è per tutti i gusti, ogni colpo di tosse dice qualcosa di preciso e di diverso rispetto ad un altro. Gli aggettivi con cui viene descritta ci danno proprio un'idea. Ne stiamo parlando con il professor Sergio Arari, direttore dell'unità operativa di pneumologia all'ospedale San Giuseppe Multimedica di Milano. In linea con noi tanti ascoltatori, segno che la tosse è un sintomo molto frequente, è la prima causa di consultazione del proprio medico curante. Abbiamo Giancarlo da Bergamo e subito dopo andiamo a Pescara. Giancarlo, buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Avevo un paio di domande per il professore. Allora, io gliele faccia difficili, Giancarlo. Ok, d'accordo. Sono un ex fumatore e da piccolo mi hanno diagnosticato un'allergia. Ah no, mi ha risposto Gianfranco? No, Giancarlo. Ah, Giancarlo. È Carmelo Lauricella, non è il primo aprile, eh? Giancarlo, scusi, è Carmelo Lauricella che mi confonde. Mi dica. Nulla. Allora, da bambino, allergia alle graminacee, poi grossa carriera da fumatore, non ho più avuto allergie. Da 5 anni ho smesso di fumare e mi sono tornate le allergie. Volevo capire se avevo ripulito i miei bronchi e se era una spiegazione plausibile. L'altra domanda era sapere se quei filtrini, senza fare troppa pubblicità, che ho visto alla TV recentemente, possono risolvere qualche problemino. Vi ringrazio. Quei filtrini, stia lì, perché non sappiamo che io... I filtrini intendo i filtrini nasali? Sì, esatto, sì. Proprio quelli. Allora, i filtrini nasali, dico subito, non servono a niente, perché ovviamente uno respira anche dalla bocca, quindi al di là di altre considerazioni tecniche, già solo questo basta smontare qualsiasi ipotesi di efficacia. Per ciò che riguarda invece la sua prima domanda, credo che teoricamente dovrebbe essere semplicemente una coincidenza senza nessuna correlazione fra l'andamento del suo fumo e l'andamento delle sue allergie. Quindi non possiamo dire che il fumo svolge un'azione antiallergica. L'azione protettiva del fumo credo che non ci sia, non mi spiace. Allora, e andiamo a Pescara con Gianfranco, buongiorno. Buongiorno signore Deborah e Nicoletta, grazie di esistere, non esagero. Adesso così. Ci montiamo un po' la testa. E, va bene. Non è il primo aprile, no. Ribadisco. Non è il primo aprile, no, ma è una trasmissione, guardi, favolosa. Non ci fosse, bisognerebbe inventarla. Ascolti, volevo dire, mia moglie aveva una tosse che non le dico, ma è andata avanti per anni. Allora siamo riusciti a scoprire che aveva il reflusso. Sentendo una vostra trasmissione dove c'era un noto gastroenterologo, il professor Baira, esatto, suggeriva di bere almeno 2 litri di acqua al giorno. Sai che mia moglie ha risolto con reflusso e con la tosse? Incredibile. Una cosa incredibile. Facciamo una statuetta al professor Baira, che tra l'altro è stato studiato, proprio era presente quando i due medici hanno scoperto l'Helicobacter pylori, per cui è un fiore un po' all'occhiello della nostra medicina. Professor Arabi, quindi... L'altro aspetto che posso solo aggiungere positivo del bere molto è che chiaramente in assenza di altre controindicazioni a un'idratazione abbondante, soprattutto di solito le controindicazioni sono di essere portatori di malattie cardiologiche rilevanti, il bere molto, oltre a far bene all'organismo, ai reni, alla pelle, fa bene anche alle secrezioni bronchiali ed è il miglior modo per avere delle secrezioni bronchiali fluide. Quindi, per esempio, quando avete l'influenza con la bronchite e il catarro un po' denso, la cosa più semplice, ma anche tra le più efficaci per sciogliere il catarro rispetto a tanti altri prodotti cosiddetti da banco, è bere molta acqua. Vedi, un bel bicchiere d'acqua. Andiamo a Lorenzo che ci chiama da Ancona. Debora, eccolo là, giochiamo quasi in casa. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno a voi, complimenti per la trasmissione. Non è che sono riuscito a sentire tutto quanto il programma, però per questo ci fai complimenti, volevo... Lorenzo. Sulla fiducia. Volevo... No, ci mancherebbe. Lorenzo, vada. Volevo sapere, siccome sono stato affetto da virus, da intestinale, queste cose qua, potrebbero poi rilasciare degli effetti collaterali? Perché io ho questa tosse continua che inizialmente il medico di base aveva consigliato di fare crenelle, fibron, eccetera, aerosol, l'ho fatto per 10 giorni, ma ancora non c'ho niente. Spruzzetti locali, no? Scusi, e c'ho sta tosse in diretta. C'ho sta tosse che mi perseguita, diciamo di notte, no? Però ecco, io anche normalmente ho sti colpi di tosse abbastanza ripetuti, non è che ci sono dei momenti. Sì, insomma, sono equamente distribuite nel corso della giornata. Esatto. Così per non scontentare nessuno, sì. Professore. È un po' difficile adesso entrare nel dettaglio dei sintomi, signore. Quello che si può dire è che sicuramente, visto che lui faceva riferimento prima a episodi virali, i virus hanno un'azione irritativa molto forte e nei soggetti predisposti, per esempio appunto gli asmatici o chi è asmatico e non sa di esserlo, o quelli che noi definiamo gli iperreattivi, scatenano un peggioramento della sintomatologia asmatica che può tradursi per esempio in una tosse persistente. Quindi se uno ha avuto per esempio un'influenza e poi ha la tosse prolungatamente, può essere un episodio di tipo asmatico che andrà trattato e delle volte può anche essere necessario avere un po' di pazienza perché la cosa si spenga completamente. Professor Arari, parliamo di chi anche si confronta con quei raffreddori che non finiscono mai. È vero che potrebbero essere in qualche modo legati a una possibile asma? Ci sono varie forme per cui può esserci una correlazione fra le alte vie aeree e le basse. Ci sono prima di tutto delle situazioni in cui il catarro può sgocciolare posteriormente e andare in retrofaringe, da lì arrivare in trachea, e questo può determinare sia infezione sia stati irritativi. Questo noi lo chiamiamo post nasal drip, sgocciolamento post nasale. L'altro aspetto invece è quello di situazioni di tipo allergico particolari che si chiamano triade di Vidal, che correlano sinusiti, riniti, allergia asmatica e allergia aspirina. Le tre cose sono legate, hanno un profilo poi un pochettino particolare questi pazienti dal punto di vista della presentazione clinica e degli approcci terapeutici, ma esiste quindi una correlazione. Poi molto spesso il paziente asmatico soffre anche di episodi di rinite allergica, che è l'altra condizione molto frequente. Andiamo da Ettore e poi due indicazioni per i genitori all'ascolto per la tosse dei loro bambini: come bene affrontarla, come non, perché non va trascurata, ma anche quali sono i segnali che ci devono spingere a consultare il pediatra. Ettore, buongiorno da Latina. Buongiorno a lei, al professore, a tutti quanti. Ettore, benvenuto, allora, ci dica. Sì, allora io sono tanti anni, non sono stato mai fumatore. E sono tanti anni che la mattina appena mi alzo, per un'oretta circa, ho fastidio alla gola. Cioè, io la chiamo raschiarella in dialetto. Raschiarella? Ma il professor Orari... Raschiarella è originale, di solito dicono dopo, raspino. Dopo un'oretta, ecco, dopo un'oretta mi va via. La raschiarella se ne va? Sto bene. Okay. Non mi affatico perché abito in salita, quindi non mi affatico. E sono una persona di 120 kg, però Ettore, non mi danno problemi. Ecco, i 120 kg se li trasporta con leggerezza, ma la raschiarella mattutina. La raschiarella mattutina in questo caso potrebbe effettivamente essere legata a un reflusso favorito dal sovrappeso, perché il sovrappeso chiaramente schiaccia sullo stomaco. E i pazienti sovrappeso hanno spesso problematiche di tipo reflusso. E poi l'altra cosa interessante da sapere è che il sovrappeso ha un'influenza negativa indipendente sulle malattie respiratorie. In particolare esiste una correlazione negativa fra obesità e asma, e sappiamo che se i pazienti dimagriscono hanno un miglioramento anche della situazione asmatica, oltre al fatto che stanno meglio dal punto di vista generale, migliora anche la loro funzione respiratoria, perché chiaramente i polmoni possono muoversi molto meglio nella gabbia toracica. Professor Arari, in un minuto un'indicazione, un messaggio per le mamme e i papà all'ascolto preoccupati per la tosse del loro bambino: due regole e due raccomandazioni. Stare attenti prima di tutto a inibire troppo la tosse, usare i cosiddetti sciroppi da banco con attenzione, molto spesso delle cose semplici come quello che citavo prima di bere un po' più di acqua sono sufficienti a sciogliere il catarro, e l'inibizione della tosse, come abbiamo detto prima, non necessariamente è un dato positivo. Gli aerosol talvolta possono essere efficaci nello smuovere il catarro sia a livello delle alte vie respiratorie, quando c'è anche una componente nasale, sia delle basse vie respiratorie, e hanno il vantaggio che possono essere medicati su indicazione medica con alcuni farmaci che possono aiutare per esempio ad avere un'azione antinfiammatoria come i cortisonici inalatori oppure broncodilatatrice come appunto i beta 2 stimolanti, con cui con qualche goccina sulla base della specificità del bambino, del peso, dei sintomi eccetera, si può creare un aerosol che permette così. Bisogna stare un pochettino attenti perché delle volte le caratteristiche reologiche di queste pozioni che andiamo a costituire possono non essere veicolate in maniera ottimale nelle vie aeree attraverso le diverse macchine aerosol, quindi anche una certa attenzione, e questo può suggerire sempre il medico, al tipo di macchina da utilizzare. Al tipo di composizione da utilizzare. Esatto. Professor Arari, grazie per essere stato con noi, le auguriamo una buonissima giornata. Grazie a voi. E noi siamo pronti a fare due conti. Esatto, siamo pronti a fare due conti, cambiando argomento. Siamo all'ultimo giorno del mese di marzo. Questo 2016, lo abbiamo raccontato in lungo e largo, si è presentato in modo piuttosto turbolento sul fronte dei mercati finanziari. Ma nel complesso, come è andato questo trimestre? Abbiamo, come qualcuno addirittura si azzarda a sostenere, un mercato toro, ne sono convinti in molti, ma l'economia non ha uno slancio tale da giustificare questa considerazione. Effettivamente all'inizio dell'anno, lo ricorderete, le borse, a causa di alcune notizie che sono arrivate dalla Cina, ma non solo, hanno avuto una profonda sbandata, poi hanno recuperato tutte vigorosamente. Adesso proprio questo recupero delle ultime settimane viene considerato un mercato toro. Ma è così? Cosa ne pensano gli investitori professionali? Parleremo di questo e di molto altro in questo nuovo appuntamento della nostra rubrica del giovedì. Investire informati. Il numero verde per intervenire è sempre lo stesso, è l'800 24 00 24. Fateci le vostre domande, condividete con noi le vostre curiosità e riflessioni in materia di risparmi ed investimenti, naturalmente in relazione alle notizie di queste settimane, di questi ultimi mesi. Quale scelta state prendendo in considerazione? Su che cosa non avete le idee chiare? Naturalmente l'andamento di borse e obbligazioni qualche volta confondono necessariamente le idee, per questo dobbiamo affidarci a una consulenza di professionisti adeguati. E allora, qual è la notizia che sentite vi preoccupa in modo particolare in relazione al vostro risparmio? Oltre a chiamarci, potete anche scriverci al 349-238-6666. Riceviamo sms ma anche WhatsApp. Ben ritrovato Lorenzo Alfieri, Country Head per l'Italia di JP Morgan Asset Management. Ben ritrovato. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, tra l'altro anticipo già, poi magari ne parleremo anche ad un certo punto della trasmissione, ma domani dedicheremo tutto il programma a questo tema. Settimana prossima Milano sarà animata da una grande manifestazione, la nuova edizione del Salone del Risparmio, 6-7-8 aprile, ci sarà anche JP Morgan, poi magari ci racconterà con quale il dottor Alfieri iniziative, con che tipo di programma. Domani invece ci raggiungerà Fabio Galli, direttore generale di Assogestioni, per dirci un po' su quali temi punteranno quest'anno. Sono anche quest'anno, Nicoletta, molti temi di cuore hanno scelto, perché soprattutto l'andamento demografico è quello che viene tenuto sotto grande osservazione dai professionisti del risparmio, no, Alfieri, prima di cominciare ad analizzare i mercati. È proprio così? Assolutamente, certo. È chiaro che soprattutto in mercati così violenti, nelle loro oscillazioni, il faro di riferimento deve essere quello di salvaguardare ovviamente il proprio patrimonio e soprattutto continuare, se possibile, a risparmiare in modo avveduto, perché i rischi ovviamente, come abbiamo visto, sono quello di forti correzioni che poi possono compromettere gli obiettivi, no, di rendimento. Allora, avevamo così pensato di iniziare la nostra trasmissione facendo un bilancio, anche se in realtà il bilancio proprio del primo trimestre lo avremo solamente stasera a borse chiuse, ma di fare un bilancio su quello che è accaduto in questi primi tre mesi dell'anno, che certamente non hanno fatto annoiare gli investitori professionali e in qualche momento hanno fatto un po' spaventare i piccoli risparmiatori. Ricorderete cosa è successo a gennaio con il tracollo di borsa su scala internazionale a causa delle iniziative prese dalla Cina, a causa delle preoccupazioni legate al rallentamento economico cinese, che naturalmente poi si propaga in tutto il resto del mondo. Ma non c'è stato solo quello come tema su cui è stata indirizzata l'attenzione generale. Vi dico un po' di percentuali su quello che è successo dall'inizio dell'anno fra i listini internazionali. Beh, la borsa di Atene perde circa ad oggi il 10%, Parigi circa il 6%, Francoforte circa l'8%, Zurigo circa 11,5 punti, Madrid 7,5 punti, Milano è tra le peggiori, perde oltre il 15%, Londra fa meno 2 e Tokyo meno 10% circa. Wall Street, l'S&P 500, lo Standard & Poor's è attorno alla parità, quindi gli Stati Uniti vanno da una parte e il resto del mondo da tutt'altro. Su questa fotografia un suo primo commento, Alfieri, che possiamo fare qual è? Ma sicuramente è stato un inizio d'anno molto complicato e difficile, problematico, credo anche per i singoli risparmiatori che hanno visto ovviamente delle oscillazioni. Come abbiamo più volte sostenuto, credo che la volatilità rimarrà un elemento di purtroppo predominante sui mercati finanziari, lo è stato nel 2015, lo rimarrà nel 2016. Ovviamente su questa forte volatilità poi si innescano timori, preoccupazioni temporanee che abbiamo visto scatenarsi soprattutto nella primissima parte dell'anno, che poi sono state in parte mutuate e alleviate con alcune notizie diciamo un po' più rose, ad esempio il recupero del petrolio, ad esempio la consistenza nella crescita negli Stati Uniti, ad esempio la manovra di Draghi della BCE molto più ampia del previsto, e questo ha permesso inevitabilmente ai mercati finanziari di recuperare. Rimangono quindi degli elementi positivi, ma ci sono anche ovviamente delle preoccupazioni di fondo che non sono assolutamente cambiate. E forse le preoccupazioni di fondo sono proprio legate anche all'atteggiamento delle banche centrali, che continuano a mantenere un livello di liquidità sul mercato estremamente consistente, molto alto, e chiaramente qualcuno comincia anche a pensare che tutto ciò non sia troppo, che il mercato non sia drogato da tutto questo, per cui quando arriverà una correzione ad una nuova iniziativa più decisa da parte delle banche centrali, quella correzione sul mercato sarà prepotente. Tutto questo però non è dietro l'angolo, perché abbiamo ribadito più volte che anche l'andamento positivo delle borse degli ultimi giorni è stato determinato da questo effetto Yellen, come lo chiama il Sole 24 Ore ma anche gli altri giornali. La governatrice della Banca Centrale Americana, intervenendo a New York un paio di giorni fa, ha ancora una volta detto: andiamo avanti molto gradualmente sul rialzo dei tassi di interesse, certamente Alfieri mi pare che ad aprile non si farà nulla. Una nuova stretta monetaria americana non arriverà. No, assolutamente. La Yellen comunque ha dato nuovamente una conferma dell'approccio della Banca Centrale Americana, probabilmente molto diversa dal passato. È un approccio molto graduale, molto accorto a guardare anche le dinamiche macroeconomiche che riguardano le altre aree. Non ci dimentichiamo che la Fed in tempi passati guardava unicamente alle dinamiche interne, invece sta guardando ovviamente con molta attenzione. C'è da dire che la notizia, direi, importante, positiva, che in parte è stata incorporata dal recupero dei mercati finanziari, è che nonostante la Fed abbia, per così dire, staccato la spina del quantitative easing, siamo in una fase di sostanziale marginale rialzo dei tassi, l'economia americana continua ad andare a un andamento non sicuramente allegrissimo, ma comunque confortante. Una crescita che anche noi prevediamo superiore al 2% per il 2016 e per il 2017, forti dati sul fronte della disoccupazione, l'occupazione quindi è diventato un fattore chiave, e dall'altra una crescita dei consumi sempre ormai consistente. Quindi diciamo che il bicchiere mezzo pieno i mercati finanziari lo hanno guardato, e per questo motivo abbiamo avuto questo poderoso recupero, diciamo, da metà febbraio, fine febbraio. Esatto, dai minimi dell'11 febbraio, se non ricordo male. Chissà come mai Donald Trump non ha ancora avuto nulla da ridire a proposito di Janet Yellen, della politica monetaria, dell'andamento dell'economia, che peraltro rispetto a tutto quello che dice sarebbe forse un terreno di maggiore competenza da parte sua rispetto alle donne che fanno le interruzioni di gravidanza, come sentivamo prima nel giornale radio, o su tanti altri temi su cui è intervenuto. Ma insomma, la campagna elettorale si gioca fondamentalmente su temi più popolari rispetto a quello che fa la Banca Centrale Americana, che probabilmente viene vista come un'istituzione molto distante, così come noi magari vediamo lontana la Banca Centrale Europea. Ci preoccupa di più come si comporta la banca che sta sotto casa nostra. 800 24 00 24 il numero verde che rimane ancora a vostra disposizione. Raccontateci che tipo di scelte di risparmio e di investimento state facendo in questo momento, che considerazioni avete fatto in questi primi 3 mesi, vi siete preoccupati molto, avete condiviso queste vostre preoccupazioni con il vostro consulente, che quindi a sua volta vi ha suggerito di riorganizzare il vostro portafoglio, in che modo? Naturalmente considerando che gli ascoltatori che ascoltano appunto Cuore e Denari amano soprattutto conservare e proteggere il loro risparmio, noi certamente li invitiamo a fare molta attenzione a questi aspetti. Peraltro tra un po' devo andare anche alla giornata odierna di borsa. Volevo dare un altro numero che racconta quella che è stata la volatilità dei primi 3 mesi. I mercati azionari globali, lo stimava il Sole 24 Ore nei giorni scorsi, da inizio anno ai minimi dell'11 febbraio hanno visto volatilizzarsi, sentite che cifre qua, neanche ce le possiamo immaginare, 14.000 miliardi di dollari di capitalizzazione, un buco che è stato poi in buona parte ricolmato con i 12.000 riguadagnati nell'ultimo mese e mezzo. Un collasso e un successivo recupero di una violenza estrema in un contesto di volatilità anomalo. Quindi volatilità, parola d'ordine del 2016, Alfieri, come ci proteggiamo da questo otto volante? Ma come ho spesso ricordato, la volatilità è un elemento, comunque una componente dell'investimento finanziario, c'è sempre stato, chiaramente in questo momento lo vediamo in modo ancora più esaltato nel 2015 e anche in questa prima fase del 2016. Crediamo che comunque sia importante pianificare i propri investimenti, pianificare la cosiddetta pianificazione finanziaria, nel senso, significa identificare nel medio-lungo termine gli obiettivi che uno si prefigge con l'investimento, definire un asset allocation che sia in linea con le proprie aspettative e le proprie, diciamo, il proprio grado di sopportazione del rischio. Esatto. E infine mantenere la barra dritta sull'obiettivo. Sull'obiettivo, anche se ci sono dei momenti di forte tempesta. Il timone deve rimanere sempre dritto verso il faro, anche se siamo in una fase di tempesta, perché prima o poi, lo sappiamo, la tempesta finisce. E se si cambia ovviamente obiettivo, il rischio è di quello di non raggiungere nessun faro. Allora, noi ci fermiamo perché abbiamo la borsa adesso, la seduta odierna che è negativa. Anticipo già ai nostri ascoltatori che tra un po' presenterò il domandone con cui divertirvi oggi. Ho trovato un tema molto stimolante. Tenetevi bene a mente l'immagine che ho dato all'inizio della presentazione di questa parte di Cuore Denario. Ho parlato di toro, il toro che è quella fase molto positiva sui mercati azionari. Insomma, da lì parto per il domandone. Per cui attenti. Ascoltatore avvisato, libro quasi arrivato. A tra poco. State ascoltando un programma offerto da... Scegli Anima, miglior gestore fondi italiani Big al premio Alto Rendimento 2015 del Sole 24 Ore. Cuore e denari. Ed eccoci ritrovati in diretta, è giovedì, noi siamo ritornati a Cuore Denari con la nostra rubrica appunto del giovedì che è Investire Informati. Allora, stiamo analizzando con Lorenzo Alfieri, capo delle attività italiane Country Head per l'Italia di JP Morgan Asset Management, l'andamento dei mercati finanziari nei primi tre mesi di quest'anno. Ne abbiamo viste di cotte e di crude, un tracollo che ha portato le borse internazionali a raggiungere dei minimi molto significativi l'11 febbraio, poi un recupero che cominciato proprio da quel giorno e che praticamente ha visto le borse recuperare quasi tutto quello che avevano perso, ma complessivamente ancora c'è un bilancio largamente negativo dall'inizio dell'anno. Tutto questo con uno sfondo su temi ben specifici, le politiche monetarie delle banche centrali, la questione cinese tutt'altro che chiusa naturalmente, perché poi il rallentamento economico di quell'area è ancora nei fatti, il petrolio. Stamattina peraltro abbiamo un po' di recupero ulteriore rispetto agli ultimi giorni, abbiamo il petrolio americano intorno ai $37,8, il Brent a Londra a $38,9, insomma, e tanti altri temi ancora, e tutto questo condiziona le vostre scelte di investimento. E allora, che cosa state facendo in questo momento? 800 24 00 24 per raccontarci un po' il vostro orientamento. E allora, abbiamo subito pescato un'ascoltatrice che è Gloria da Rimini, che saluta. Ti amo, Gloria, benvenuta. Buongiorno a voi signori, io vi seguo sempre, leggo quasi sempre Sole 24 Ore, Plus 24, la mia Bibbia, sono un po' emozionata. No, non si emozioni Gloria, è tra amiche, ci siete dica molto tutto. Brave. Grazie. Vi ascolto volentieri, sempre volentieri. Dunque io ho questa domanda, lo scorso febbraio ho acquistato 13 fondi. Mm-hmm. Sono seguito da un gestore. Sì. Ora, a tutt'oggi, io ho una perdita secca notevolissima di 13 fondi, solo uno, diciamo, è in parità. Sì. Quasi. A fronte di questa perdita, stavo pensando di trasferire questi fondi in un'altra banca e poi piano piano di dismettere i fondi. Vi volevo chiedere se è in vigore la sospensione della negoziazione. Se è vero questa notizia, per cui io per un mese e più nel momento del trasferimento questi fondi non sono negoziabili. Nello switch, come si dice, no, anche sì. Se in questo caso non è uno switch, perché è proprio un trasferimento, una portabilità totale, esatto. Gloria, sì? Quindi se è in vigore questo, se è vero che questi fondi, certo, dopo non sono più negoziabili, e poi se mi conviene aspettare ancora oppure tagliarmi, certo, il braccio. Non si tagli niente, Gloria, che sennò dobbiamo fare la puntata di cuore anche sulle suture. Tagliato. No, per carità. Senta Gloria, però le voglio fare una domanda io. Sì. Quando ha fatto questa scelta con il consulente che la sta seguendo, che orizzonte temporale si è data? E soprattutto che diversificazione ha? Perché 13 fondi immagino che copra veramente ogni settore, mondo, ogni mercato, manca solo Marte e poi ci siamo, per cui sì, avrà fatto certamente copre, una buona scelta. Diciamo che ci sono fondi bilanciati, un fondo azionario coreano che sinceramente non è stata la mia scelta, cioè questi gestori poi te li presentano così, ma non ti vanno a dire signora guardi ci sono un 3% di azionario, un 5% corporate. cioè è tutto un miscuglio, capito? Beh, però lei già, Gloria, è brava comunque, esatto. E poi lo scorso anno tutti i giornali, e anche ora oggi, diciamo che puntano molto a far investire sui fondi, perché dicono che è l'unico modo per certo, mantenere. Ha visto com'è finita con gli obbligazionisti delle quattro banche risolte, Gloria, sì. Per cui lei in questo momento perde, certamente il mercato si risolleverà e recupererà, non so se tutto, non so se, ma magari forse, io le parlo come dire di getto, poi sentiremo Lorenzo Alfieri. Fare un bilancio ad un anno di sottoscrizione, un bilancio è bene farlo dopo un anno certamente, ma addirittura farsi prendere con quello che è successo in questi mesi, dalla foga di voler addirittura chiudere tutto, spostare tutto, non è che troverà una banca che le farà miracoli con questi mercati che abbiamo di fronte e la confusione che abbiamo di fronte. Alfieri, qual è l'aspetto che la colpisce di più delle scelte, delle considerazioni fatte da Gloria? Beh, chiaramente bisogna sempre capire al momento della costruzione del portafoglio, come giustamente è stato sottolineato, l'obiettivo temporale, ma dall'altra parte anche le caratteristiche dell'investitore. È chiaro che se ci troviamo di fronte a un investitore che ha investito in questo caso in fondi, ma con obiettivi di una certa tranquillità anche nel periodo prima di raggiungere ovviamente la scadenza di almeno 3-5 anni, di vivere quindi comunque con un rischio e una volatilità del portafoglio molto contenuta, è un conto. È chiaro che se all'interno di una costruzione del portafoglio simili, abbiamo una presenza molto massiccia e importante di fondi azionari, è chiaro che qualcosa è stato evidentemente non completamente compresa all'atto della costruzione. Però quello che dico io è che Gloria adesso ovviamente non ci ha dato il dettaglio dei fondi e magari queste sue perdite sono molto inferiori rispetto alle perdite di determinati mercati, per cui forse anche quell'aspetto vale la pena considerare, che il gestore ha fatto meglio del mercato, non lo so, magari ha fatto molto peggio, per cui immagino. Sì, comunque in effetti bisogna anche ricordare che il periodo è stato particolarmente complesso, quindi io ritengo che partendo dal presupposto che al momento della costruzione del portafoglio siano state fatte le corrette valutazioni, ripeto, al limite bisogna aspettare almeno 2-3 anni di valutazione dei vari gestori ed eventualmente rifasare dopo questo periodo la propria esposizione magari alle asset class più rischiose. Mi spiego, se abbiamo una presenza troppo massiccia la Corea, se proprio ti spaventa, o anche altre esposizioni su altri mercati azionari per concentrare magari gli investimenti dopo questo arco temporale verso asset class che sono sicuramente notoriamente meno volatili, come i fondi generalmente obbligazionari o i fondi bilanciati flessibili. Però insomma, Gloria, speriamo di non averle dato delle risposte che lei considera troppo superficiali. Ribadisco, è corretto, lei ha una bella pletora di fondi di investimento, fare un bilancio almeno una volta all'anno mi sembra il minimo sindacale. E però insomma, con quello che è successo quest'anno, Alfieri voleva... No, l'unica cosa interessante è che comunque credo che il portafoglio sia ben diversificato. Assolutamente. Avendo 13 fondi, questo è comunque un elemento importante. Non abbiamo un fondo solo o pochi fondi investiti solo in un asset class, che è il rischio maggiore, soprattutto quando abbiamo mercati così volatili e difficili da prevedere. A proposito di questioni difficili da prevedere, abbiamo detto spesso come le vicende geopolitiche giochino un ruolo centrale nell'influenzare le notizie e i numeri dell'economia, il petrolio per esempio in questo è naturalmente uno degli esempi più lampanti, ma citando per esempio Alfieri i recenti attentati terroristici a Bruxelles, noi cinicamente andiamo anche a valutare qual è l'impatto in borsa rispetto a questi fatti. Secondo lei non ne abbiamo visti, per fortuna, di effetti drammatici sui mercati azionari, un po' di turbolenza nel giorno degli attentati e poi un recupero abbastanza rapido, ma nel lungo termine, se questi episodi dopo la Francia dovessero ancora sperando di no ovviamente ripetersi, insomma, dobbiamo aspettarci anche degli effetti più marcati sull'economia internazionale? Gli elementi geopolitici ovviamente hanno un effetto molto limitato se poi non possono in qualche modo influenzare le dinamiche micro e macroeconomiche. E quindi finché, non parlo di questi drammatici eventi, ma in generale, finché qualsiasi evento geopolitico, anche alcune situazioni di magari tra due paesi di non perfette rapporti diplomatici o anche diciamo minacce, rimangono limitate nel tempo e nello spazio, sicuramente i mercati finanziari non reagiscono. Se ovviamente invece poi questi elementi diventano direi persistenti e magari iniziano a coinvolgere anche aree regionali più ampie, ecco che i mercati finanziari sicuramente se ne accorgeranno. Non ci dimentichiamo gli effetti sul prezzo del petrolio qualche decennio fa a seguito ovviamente di forti o addirittura dello di tensioni scoppio internazionali, di guerra, di ben altra portata. In questo momento purtroppo possiamo dire che gli elementi geopolitici in Europa rimangono limitati solo al terrorismo in quanto tale. Allora, prima di sentire cosa succede sulle strade italiane, rubacchio ancora qualche altro secondo di tempo alla regia, perché voglio fare il domandone. Guardate, se vi mettete alla ricerca, questa è veramente una storia straordinaria. La domanda di oggi è questa: chi ha realizzato la maestosa scultura in bronzo che rappresenta il toro a Wall Street? È veramente una storia eccezionale. Vi suggerisco solo, vi do solo, come si dice in genere, in gergo di quiz, un piccolo aiutino. È un italiano naturalizzato statunitense che ha fatto questa opera, peraltro in maniera rocambolesca, per cui 800 24 00 24, numero verde a vostra disposizione, e intanto sentiamo un po' cosa succede sulle strade italiane. Pantera col TH, l'IRP di Infracom Italia, anche in cloud. Vi presenta Cuore e Denari. Stanno già arrivando tante vostre risposte. Allora, io vorrei riprecisare di nuovo che ci piacerebbe premiare e dare un riconoscimento a coloro che rispondono in diretta all'800 24 00 24. Se poi volete anche sbizzarrirvi per dimostrarci quanto siete preparati, scriveteci anche, però ecco, preferiamo prendere la risposta al numero verde. Chi ha realizzato la maestosa, eccezionale, bellissima scultura in bronzo che rappresenta il toro a Wall Street? 800 24 00 24, numero verde a vostra disposizione. Allora, nel frattempo Nicoletta su WhatsApp monitorava i messaggi, ce n'è uno molto interessante anche qui legatissimo all'attualità. Di Massimo da Firenze, che ci scrive che ha comprato dei dollari e voleva chiedere un'analisi del cambio al nostro che esperto. È direttamente legato naturalmente alle politiche monetarie, alle scelte delle banche centrali. Allora, con la Banca Centrale Americana, che questo aumento dei tassi di interesse lo farà molto procrastinato nel tempo, appunto in questo 2016, in realtà abbiamo visto un calo del dollaro in questi giorni, Alfieri. Sì, il dollaro ovviamente è sempre al centro dell'attenzione. Abbiamo visto una lunga fase di rivalutazione della valuta americana. Sintetizzando, la nostra valutazione sul cambio in questo momento è che il dollaro, almeno rispetto all'euro, non avrà grosse possibilità di un rafforzamento. Giustamente, come è stato sottolineato, la politica monetaria europea è sicuramente quella di tenere i tassi bassissimi per molto tempo, ma non ci sarà la corsa da parte della Fed per un rialzo dei tassi. Questo ovviamente in un riequilibrio nel medio-lungo termine significa che le possibilità di un'ulteriore rivalutazione del dollaro, almeno nel breve, non sono prevedibili. L'unico diciamo elemento che potrebbe spingere verso un'ulteriore fase di rivalutazione del dollaro è o una forte ripresa economica americana o un rallentamento molto significativo dell'economia europea e anche di quella cinese. Ricordiamo infine che ovviamente il recupero del dollaro non viene visto neppure tanto troppo bene dagli imprenditori americani e diciamo delle autorità centrali come americane. Noi non vediamo tanto favorevolmente una rivalutazione esagerata dell'euro, evidentemente. Assolutamente corretto, per cui è inevitabile che ripeto, ci saranno valutazioni molto significative se il dollaro dovesse nuovamente rafforzarsi da parte delle autorità americane e conseguenzialmente magari prendere delle iniziative in tal senso. Per questo motivo non ci aspettiamo in generale che i mercati finanziari, almeno nei prossimi mesi, possano contribuire a un ulteriore rafforzamento del dollaro, ma sicuramente siamo in una fase di stabilità del cambio. Allora, intanto devo dire che oggi, con anche un pizzichino di stupore, sto notando molte domande da parte dei nostri ascoltatori, anzi molti, molti racconti di quello che stanno facendo in questo momento. C'è qualcuno che senza alcun problema racconta di aver ritirato tutto dalla banca e di fare in questo momento scelte di investire. Vabbè, una persona ci racconta, non so come investire, ho ritirato tutto dalla banca, avendo ritirato tutto dalla banca, poi come dire, gestire il denaro quando ce l'hai fisicamente in mano. Sì, c'è anche un ascoltatore che ci ha scritto che sta sistemando le piastrelle, no? Esatto, per metterle sotto. Chi punta sull'investimento in oro, e adesso sentiremo Marco da Venezia che chiede delucidazioni su questo, però volevo dare la precedenza a Federico da Vicenza, perché così come è successo anche qua in studio fra altri ascoltatori che ci stanno scrivendo, anche Federico è rimasto abbastanza colpito del racconto di Gloria da Rimini sulle sue scelte di investimento compiute un anno fa e un bilancio fatto adesso con grande delusione. Federico, benvenuto, grazie. Grazie a voi e saluto le speaker, molto brave, complimenti. Mm. Ah no, mi scusi, tra l'altro io pensavo che fosse un promotore finanziario, in linea vedo che no. Invece in regia mi hanno cambiato, allora niente, ritiro tutto quello che ho detto. Federico, mi racconti la sua. Sono un piccolo risparmiatore che mi sono affidato a un promotore finanziario e con il tracollo che è stato avvenuto appunto a gennaio, mi ha consigliato di fare obbligazioni long short, quindi io non sono tanto ferrato, però mi hanno detto in soldoni che più c'è, diciamo, una perdita, più c'è un guadagno. Certo. Questo, ecco. Però Federico, guardi, io, lei ha detto già una cosa fondamentale, io non ci capisco tanto, ma per quale motivo uno deve avventurarsi a prendere una cosa se vuole proteggere il suo risparmio? Cioè, è possibile secondo lei che ci sia qualcosa di così miracoloso che ti fa guadagnare sulle perdite? Certo, la leva finanziaria qua mi pare che sia il tema, no? Come fa un povero risparmiatore a capire come funzionano queste dinamiche, Alfieri? No, sì, Federico, vuole concludere? Sì, sì, io penso che se ci si affida a un promotore, qualcuno possa anche azzeccarci, insomma, visto che certo, lo fa per lavoro. Però il suo denaro non si può trattare come se fosse qualcosa su cui scommettere, Federico, questo senz'altro. Io direi che se lei si è lasciato convincere dai suggerimenti di questo consulente, evidentemente ha fatto il consulente un buon lavoro con lei, ma magari non esageri anche con la porzione di risparmio che mette su questo strumento un po' ardito, direi, Alfieri. Sì, due temi molto, molto importanti. Come correttamente è stato esposto, il risparmiatore in un mondo così complicato e difficile e con mercati così volatili si deve assolutamente affidare a un professionista, e dall'altra parte ovviamente l'interazione con il professionista deve basarsi ovviamente su degli chiari e trasparenti messaggi informativi, perché è inevitabile, se si va ad acquistare ovviamente un prodotto particolarmente complesso, se i risultati poi finanziari non sono quelli che uno si aspetta, è anche difficile spiegarglielo. Resta il fatto che auspico sempre, e ne sono convinto, che i consulenti finanziari facciano bene il loro lavoro, e quindi è possibile utilizzare all'interno di un portafoglio, ecco, anche, per un molto anche per un investitore articolato, magari non particolarmente ferrato in materia, alcune porzioni del portafoglio su strumenti un po' complessi come long short, ma che rappresentino sempre una piccola parte del proprio portafoglio, e che diciamo il risparmiatore sia ben conscio che stiamo utilizzando strumenti così. Ma lei ce la farebbe in 30 secondi a dirmi che cos'è questo long short? Io le do 100 euro, Alfieri. Lei mi dice: te lo metto sul long solo short. Solo per la risposta, esatto. Per metterteli. Esatto. Cioè, su che cosa punta? Su no, che strategia punta? Fondamentalmente partiamo dal presupposto. Ogni giorno ci sono titoli che salgono e titoli che scendono. È possibile quindi attraverso questi strumenti comprare contemporaneamente una posizione lunga, cioè comprare su titoli che si pensa in anticipo che possano salire, e contemporaneamente andare corti su titoli che pensiamo scendano. Andare corti significa che fondamentalmente vendo in anticipo ciò che non ho e che ricomprerò il giorno dopo a prezzi più bassi. Quindi in questo momento significa, per così dire, avere la possibilità di poter guadagnare, come correttamente è stato esposto prima, certo, anche quando i mercati scendono. Ci mancano pochissimi minuti di tempo. Allora, Maria da Novara, chi ha realizzato la scultura in bronzo che rappresenta il toro di Wall Street? Pomodoro. Maria, non è Gio Pomodoro, ci dispiace, ma noi la premieremo lo stesso per la simpatia. Grazie a lei. Prima di sentire se abbiamo la risposta esatta, Filippo da Trento, ci tenevo molto, l'ho fatta recuperare con la forza. Eccoci a lei. Grazie mille. Posso dare la risposta a Wall Street? No, perché ci sono, non si è candidato per quello, però so già che per la professione che fa lei lo sa. Va bene, no, però... complimenti per la trasmissione, ogni tanto vi uso, permettetemi il termine, anche per andare in trattativa con qualche cliente, visto che sono ma guardi che siamo qua per questo, fantastico. Per come dire, darvi argomenti di discussione con la vostra clientela. Cosa ne pensa di quello che ci ha raccontato Gloria da Rimini in precedenza? Vabbè, come diceva giustamente lei, che dopo un anno sicuramente un bilancio va fatto, bisogna comunque monitorare la posizione, però magari dire trasferisco i fondi con un'altra banca sperando che ci sia la soluzione miracolosa per recuperare le perdite, contestualizzandole anche nel periodo che stiamo vivendo, magari forse non è la scelta proprio contestualizzare il periodo che stiamo vivendo. Che bella considerazione che ha utilizzato Filippo, grazie. Ma Marcello da Modena, chi ha realizzato la scultura in bronzo di Wall Street, il toro? Buongiorno, è Arturo di Modica. Arturo di Modica, lo scultore italiano di Ragusa, di Vittoria, eccezionale. Andate, vi metteremo su Facebook un filmato che ha realizzato la mia amica e collega Rosalba Reggio a New York intervistandolo. È un personaggio straordinario.